Sconvocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Kimi Raikkonen, vanno giù insieme verso curva 2. Gli concede l'esterno. Verstappen! KO, contatto. E fuori Kimi Raikkonen. Doppio cambio di traiettoria per Verstappen. Molto aggressivo, forse foratura. A margine per fare il pit stop. Lui forse a margine per fare il pit stop. Per Verstappen. Vediamo. Ala rotta. E adesso dovranno verificare se con questa ala riesce a stare in pista. Lewis Hamilton che sta affrontando l'ultima curva per andarsi a prendere la quinta vittoria in carriera in Ungheria. Nessuno come lui per andarsi a prendere la leadership nel campionato mondiale. Lewis Hamilton dopo 11 gare torna ad essere padrone di quello che è suo da due stagioni, due titoli consecutivi, tre in totale, e torna a essere leader davanti a Nico Rosberg che chiude la gara in seconda posizione. Ciao a tutti, 800240024, siamo in diretta tutta l'estate, anche la domenica, per parlare con voi di sport. Dunque partiamo da qui, dalla cronaca più recente e più fresca, con Giorgio Taruzzi, professore, buongiorno. Ecco, Der, buongiorno. Professor. vabbè, lasciamo perdere. Guten Tag. Senti. Non c'è tantissimo da dire su questo Gran Premio di Budapest. Una pista, minchia, questa pista qui è tremenda. Poco da dire, nessuno ha passato nessuno. Ci ha provato Raikkonen e non ce l'ha fatta, pazienza. Senti, bello però, no? Divertente. Divertente fino a un certo punto, Giorgio, perché insomma mi piace dire il dato politico, come fanno i grandi analisti di quel magma che è la politica. Allora, Mercedes irraggiungibili, Hamilton ha deciso che va bene, adesso basta dare strada al biondino che ha rinnovato il contratto, che è un bravo ragazzo, che si presenta bene, che parla perfettamente italiano, eccetera. Il campione del mondo sono io. Il dato politico è che la Ferrari è stata superata dalla Red Bull. Sì. No, è indietro ancora un punto la Red Bull nel mondiale costruttori. È stata superata questa pista che insomma in qualche modo si sapeva, la Red Bull è in crescita, la Ferrari no, però sono dati che avevamo già. Io dicevo divertente il duello tra quei due lì, no? Sì. Verstappen e Raikkonen, è stato divertente vederli battagliare senza nessun, secondo me senza scorrettezze, cioè battaglia agonistica da Formula 1, no? Sì, insomma, c'è troppa gente che... Cioè, c'è una contraddizione, no? Se tutti ci lamentiamo di queste continue regole, sono continue, è un festival dell'ammonizione, della polemica. E i piloti, se ci facciamo caso, ormai sono talmente assuefatti a quella mentalità lì, che si lamentano in continuo, denunciano l'altro via radio, no? Sì, non si può dire niente, ma insomma... Ma no, cioè, ma sì, meno male, c'è stato un bel duello in una domenica all'off, su una pista noiosissima, e bene, uno era finito davanti, uno ha finito dietro, pazienza, no? Sì, come dovrebbe essere, no? Nelle battaglie agonistiche della Formula 1, come sono sempre state. Il problema è questo livellamento e il fatto che comunque... Tu dici un punto di vantaggio nella classifica costruttori, però io leggo la classifica piloti: Hamilton 192, Rosberg 186, terzo Ricciardo 115, e quindi dietro di uno, Kimi Raikkonen, che ha rinnovato il contratto, che oggi ha battagliato bene. Non so quanto possano essere connesse le due Ma con Raikkonen è sempre cose. Difficile, cioè Raikkonen è uno che sguazza, esce, entra nell'ombra come sa far solo lui. Però ha già fatto una bella corsa, insomma. Sentiamo, arriva bene sul duello con di Raikkonen con Verstappen. Credo che oggi Kimi abbia dimostrato alla grande di aver meritato la conferma, perché è stato... poi ci sono state delle manovre... Vabbè, avete già parlato con Charlie Whiting di questo? Sì, abbiamo già parlato dal muretto, ma sai, c'è sempre una scusa buona, come il discorso delle condizioni eccezionali. Non so, è una condizione eccezionale quando piove, mi riferisco a ieri, lasciamo perdere. Giorgio, tu sei un'autorità in materia, quindi io posso permettermi di farti domande difficili. Che voto dai a Vettel in questa stagione? Sta un po' mancando, secondo me. Però è molto difficile dare una valutazione. Cioè, lui ha fatto anche delle gare strepitose, anche ieri ci ha provato. Cioè, ed è sicuramente, ha in mano ormai la squadra. Cioè, lui è il leader di questa squadra. Lo si vede anche da come parla, da come, da cosa dice. Cioè, anche lui è un altro che si lamenta, persino dei giornali italiani, dei giornalisti di cui non sa niente, mm-hmm. non legge niente. Però il fatto che sia così vicino a Raikkonen, qualche piccolo dubbio lo mette sul suo rendimento quest'anno. Cioè, secondo me lui non ha il morale alto, perché pensava di trovarsi in una posizione molto diversa da quella in cui si trova. E quindi, come capita a molti di questi ragazzi che sono nati per vincere, sono abituati a vincere, sono protagonisti dentro, il fatto di trovarsi in una situazione di meno centrale li scombussola un po', insomma, li patiscono un pochino. Credo che sia un po' questo il punto. Poi valutare un pilota per me è sempre molto difficile. Con una macchina così, francamente, non credo che nessun altro possa fare qualcosa, sì, di meglio. Però posso replicarti che l'anno scorso fece una stagione da, secondo me, da 9 con una macchina che non valeva 9, mentre quest'anno sta facendo una stagione da 6,5 con una macchina che vale 6,5. Sì, forse un po' poco 6,5, Cioè, io francamente sono un po' in difficoltà a dire sì, è così. Cioè, vale il rapporto con Raikkonen, al quale l'anno scorso ha dato sempre pagona, certo, e quest'anno certo, no, certo. Non più, o non sempre. Ci sono delle condizioni diverse. Cioè, la Mercedes si è molto rinforzata. Cioè, questa squadra qua è una squadra, noi ci dimentichiamo, che questi sono dei fenomeni, cioè, stanno facendo delle cose straordinarie, sempre hanno un sistema, sì. Ce l'ha anche la Red Bull. Giorgio, che stanno cresce. Ammazzando la Formula 1, però. Ah, quello sicuro, non ci sono storie, non c'è niente da raccontare. C'è sto ragazzo Verstappen che si potrebbe raccontare, viene fuori da un inferno, da una crescita di una famiglia particolare con un papà padrone, ci sarebbe da raccontare una storia meravigliosa, non viene fuori niente, non si sa niente di sti ragazzi, non ti dicono neanche come si chiamano le figlie, sono delle robe tremende. No, ma veramente, cioè non c'è nessuno, non c'è pancia, non c'è cuore. In più stiamo discutendo sulle bandiere doppie gialle ieri sera fino alle 11, aspettare di capire com'era la classifica, no? Sì, perché sì, cioè, sì. Ma il 107% mentre pioveva, 4 bandiere. Cioè, questa cosa dei sensori all'esterno delle curve, se vai fuori prendi le ammonizioni, è una cosa che non sta nella storia, nella tradizione, nella cultura motoristica. Cioè, ma chi se ne frega se uno va all'esterno curva? È uno sport estremo, vai fuori dalla curva, pazienza. Cioè, è una cosa, è troppo razio, troppo testa, troppo poi calcoli. Sai cosa succede? Che la gente fa click Per forza. In più becchi una gara come quella di oggi, dove no, veramente per fortuna hanno duellato quei due lì, ma una pista dove non c'è un solo punto, forse, dove se l'altro fa una mezza maronata puoi provare a passare, ma cioè troppo ghiaccio secco, troppo, sì. Ghiaccio secco, cioè. Sì. Giorgio, un'altra domanda difficile per te la faccio subito dopo il traffico, un secondo. Questa squadra, lo dico, è forte ed è unita, il morale basso è tutta una storia che qualcuno mette in giro per fare in modo che ci venga il morale basso, ma noi non ci arrendiamo mai. Tutti convocati. Siamo qui col professor Giorgio Terruzzi, cui ho ancora una domanda complicata da fare dopo quella del voto a Vettel, su cui non ci siamo trovati particolarmente d'accordo, ma va bene così. Chiamo in causa anche gli ascoltatori, eventualmente 800240024. La seconda domanda difficile è quella relativa al muretto della Ferrari, perché Marchionne parla. Arriva bene, è lì, difende il suo lavoro. Non possiamo dimenticare le dichiarazioni all'inizio stagione di Marchionne: siamo competitivi con la Mercedes, totalmente fuori luogo, fuori tempo e fuori logica. C'è a questo punto chi comincia a dire: ma perché non cambiare il commissario tecnico? Secondo me sarebbe un errore. chi prendi? Questo è il punto. No, ma chi prendi? È da cambiare, arriva bene. Secondo te ci sono le condizioni per cambiare? Credevo in commissario tecnico, credevo intendessi James Allison, il capo progetto. No, secondo me io devo essere coerente. No, non ci sono quasi mai le condizioni per cambiare il, non c'erano nemmeno per cambiare Stefano Domenicali, secondo me. Cioè, se tu hai un progettista che sbaglia macchina, non c'è niente da fare. Il problema è che... Senti, ma il Greco che ne ha sbagliate 14 di macchine? Il Greco ne ha sbagliate tante. No, non ne ha sbagliate 14, ne ha sbagliate un po'. Però il problema è che hanno trovato sempre qualcun altro che ha fatto meglio di loro in questi anni qua. E non c'è verso, non c'è nessun, non c'è niente da fare. Il problema però è che se continui a cambiare gente, sistema, diventa paradossalmente più difficile, a meno che non prendi la Madonna di Lourdes, ma siccome non c'è, perché quelli buoni non sono disponibili, allora diventa un problema cambiare un progettista adesso con il lavoro sulla macchina dell'anno prossimo, spero, più che avviato. Beh, speriamo non so tutti, però non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Il fatto è che, Giorgio, siamo qui ad aspettare una Ferrari vincente. Il problema è che il numero uno della Ferrari a inizio stagione ha detto: siamo competitivi per il titolo, però in Formula 1 tu mi insegni, io sono un allievo, non puoi togliere 40 secondi da una stagione all'altra. No, lì è stato un errore proprio di esperienza, di comunicazione, no? Sì, molto grave. È stato forse l'inizio dei problemi, perché ha creato un'aspettativa forte, quindi una delusione più forte. Io non vedo questa cosa che dice arriva bene, questa tendenza andare contro la Ferrari. Vedo un po' di delusione, penso che la delusione sia parte anche sua e della gente della Ferrari. Cosa vuoi dire? Rispetto a un campionato che doveva essere almeno meglio di quello dell'anno scorso, invece sembra peggio e sembra un po' destinato a un bilancio amaro, no? Non è questione di fare il tifo contro, è questione di dire che probabilmente c'è qualcosa che non funziona nella struttura tecnica che fa la macchina. Sì. Almeno non ha funzionato fino adesso. L'anno prossimo c'è un'occasione, però, cioè non sono più cambiano i regolamenti. Sì, cioè non sono più evoluzioni di questa macchina, sono altre macchine, cambiano le macchine. Allora lì bisogna sperare e pensare che la gente abbia lo sgurz per trovare una buona idea. Dico questo sapendo che la Mercedes sta lavorando sulla macchina l'anno prossimo da mesi con quella struttura lì. Cioè, intendiamoci, qui abbiamo a che fare con gente che ha una cultura e una struttura di primissimo ordine. Però Aldo Costa, che progetta queste macchine, era la Ferrari e sembrava uno che sbagliava le macchine anche lui. In realtà non è soltanto un problema di individui, è di un gruppo di persone e forse anche di una tranquillità, di una serenità che a Ferrari serve a questo punto, perché sono cambiate troppe cose, troppe persone in questi anni qua, anche secondo me con un po' affrettatamente, no? Sì, secondo una mania tutta italiana. Del resto la Ferrari ha più pressione di altri, cambi mi ricordo 2-3 anni fa la Mercedes ha cambiato tutti i tecnici di pista dei due piloti, c'era un trafiletto forse su un giornale tedesco. Se la Ferrari cambia il gommista di Vettel, sembra che sembra la rivoluzione. Sì, capito, è un po' così, devi essere un po' forte su quel fronte lì e non vedere le streghe o le cose negative di chi ti sta attorno, perché secondo me non c'è niente contro la Ferrari, cioè la Ferrari accoglie il tifo e la delusione di tanta gente che si vorrebbe vederla vincere, finita lì. Questo è chiaro. Giorgio, ti chiedo ancora questo, ed è una domanda epocale: come si fa a vendere di nuovo questa Formula 1 agli sponsor, a nuovi circuiti? Adesso vediamo cosa succede per Monza, vediamo cosa succede per i circuiti storici. Però com'è possibile rendere eccitante di nuovo questa Formula 1 per un grande pubblico che guarda la partenza, poi cambia canale, poi vede che ha vinto? Ecco, questo qui è un tema molto complesso. Cioè, io penso che il management della Formula 1 sia fallimentare. cioè questi qui che gestiscono le squadre sono sembrano dei fenomeni dentro il paddock, ma dal punto di vista della politica sportiva non sono capaci di combinare niente. Cioè sono tutti preoccupati dal loro sticello, dal loro denaro, e hanno una vista un po' miope. Eccleston, secondo me, che è quello che la vede più lunga di tutti, non ha, volendo addirittura comprarsi la Formula 1, secondo me non sarebbe dispiaciuto di comprarsela a una cifra bassa, per cui servirebbe riformulare un format, cioè il format della Formula 1 è scaduto, secondo me, sono come quei quiz che fanno da 50 anni, dopo un po' basta, no? Devi cambiare la modalità perché se no non ti segue più nessuno. In termini di relazione col pubblico, di relazione con i piloti, di relazione con le regole, cioè persino con qualche regola tecnica che è eccessivamente preponderante, va bene l'elettronica, però insomma ce n'è un po' troppo, qualcosa si potrebbe ridurre. Cioè secondo me c'è una tendenza a politicizzare per niente tutto, sì, no? Certo, e quindi, certo, e quindi certo. Insomma tutti, il problema è che tutti loro individualmente lo dicono, poi quando si trovano e si continuano a incontrare non decidono mai niente, non si capisce cosa facciano queste riunioni, cioè si riadunano e non decidono niente da 5 o 6 anni, non si sa perché. Maestro, tu sai che io penso che le riunioni più efficaci siano quelle di persone che si incontrano in numero dispari inferiore a 3. Ma lì è difficile. Questo vale in ogni campo, vale in ogni campo. No, ma finché Eccleston funzionava come un vero manager di un'altra età e di un'altra visione, certo, funzionava così, è stato così. Ma la Formula 1 è diventata quello che è diventato grazie a questo, no? Certo, piaccio o no. Piace oppure no, piace oppure no. Giorgio, ti ringrazio. È sempre un piacere. Ciao Giorgio Terrussi. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo cominciato con la Formula 1. 800 24 00 24 per chi vuole intervenire. Adesso andiamo sul tormentone, sul mal di testa totale di questi giorni. Gonzalo Higuain, Pogba. Caro Marotta, ma tu hai pagato la clausola rescissoria? Io non ci penso nemmeno. E allora dillo. E così te ne vai, e non ti importa niente che me. Che non c'è trattativa, ecco, non è possibile trattare, quindi basta. Quindi non siete intenzionati a pagare la clausola rescissoria, no. Questo si può dire? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Se non si può trattare, non si può trattare. Chiuso l'argomento. E così te ne vai, è già deciso come a partire. Dove andrai? Che farai? Bisogna anche vedere se Higuain vorrà tradire questo amore che sembrava avesse giurato ai napoletani. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. È un tradimento a se stesso, perché uno non va sotto la curva che rappresenta da sempre i colori e l'anima di una squadra, poi figuriamoci a Napoli, non va a intonare nemmeno la canzone dell'innamoramento e quindi sarebbe veramente un controsenso. È un tradimento a se stesso. Parole d'emozioni. Io ho Nicola da Napoli che è un ascoltatore, 800 24 00 24, anche Nicolò Ceccarini di Calcio Mercato Sport Mediaset. E allora Nicola, chiedi a Nicolò quello che vuoi. Salve dottor Gento, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Voglio fare i complimenti, sono tifosissimo del Napoli, è preciso che chiamo da Ischia, sì, provincia di Napoli, però è uno dei posti più belli del mondo. Sì, infatti. Allora, per quanto riguarda, faccio i complimenti alla Juve per il grande acquisto che ha fatto Giuda Higuain. Veramente Giuda, Giuda. Come 6 Giuda. Milioni e passa tifo. Giuda Higuain. Giuda. Abbiamo messo il nome qua a Napoli, sì. Napoli e provincia. Già girano sul web tante. Purtroppo è fatto di carne, è stato tentato dal dio denaro, come, però io pensavo che esisteva ancora qualche persona, qualche calciatore come Marek Hamšík che ci tiene la maglia, nonostante che ha subito anche qualche furto a Napoli, sta dimostrando lui. No, lasciamo stare, Nicola, lasciamo stare i furti. Il problema è che Hamšík può avere un mercato, Higuain è un'altra cosa. Sì, giusto per mettere. allora faccio una domanda a Nicolò Ciccarini. Prego. Come Higuain, 4 anni fa Conte si stava mangiando ancora le mani per 40 milioni, la Juve non l'ha chiuso, il Napoli l'ha chiuso per 40 milioni di euro. Dopo 3 anni, quasi 29 anni, sotto i 30 anni, Napoli per me ha fatto una plusvalenza enorme, devo fare i complimenti a De Laurenti. A noi quello che non ci scende giù, da tifosissimo del Napoli, sangue azzurro, è che è andato nella Juve. E quei signori Higuain è meglio che forse non verrà proprio a Napoli, non so come sarà bombardato Higuain. E poi per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, se Carlos Bacca sta per chiudere, per venire a Napoli, se ci sono altre novità per quanto riguarda il mercato, perché faremo un grande mercato e daremo sempre filo da torcere alla vecchia odiata signora. Complimenti per la trasmissione. Grazie Nicolò, grazie Nicolò, un abbraccio anche a lei, ciao Nicolò. Eccomi qua, buonasera a tutti. No, ho 3 domande per te, come dice Ligabue. Esatto, però bisogna che me le ricordi perché lo ascoltavo con grande al di là di Jude Higuain, di Amsic che invece tiene la maglia, però Amsic non risulta che abbia offerte di questo tipo e di questa portata. Che c'è una differenza di fondo, no? Amsic non ha una clausola rescissoria, mentre Gonzalo Higuain ha una clausola. Esatto, quindi hai attaccato a Higuain il cartellino del prezzo. Se uno arriva lì dice quanto viene questo in vetrina, viene 94 rotti, ok, prendo, poi, porto a casa. Se vuoi il mio parere, voglio dire, è chiaro che l'operazione della Juve è un'operazione finalizzata ad andare a vincere la Champions. Avevamo bisogno di un campione là davanti, avendo perso un potenziale campione come Morata e non potendolo trattenere e neanche ricomprare, hanno scelto la carta dell'uomo sicuro, ovvero Gonzalo Higuain, che aveva questo prezzo. E credo che, al di là della plusvalenza, no, l'ascoltatore di Napoli, Nicola, ci diceva appunto complimenti per la plusvalenza. Sì, complimenti, credo fosse anche un po' ironico, nel senso, sì, la plusvalenza in Napoli l'ha anche fatta, perché ha pagato 40 milioni, 3 anni di ammortamento, no? Uh-huh. E lo rivende a 90 milioni. Però poi dopo devi sostituire Higuain con un altro campione. E questo credo sia il punto cruciale. Sì. Sì, io credo che loro avessero già in testa, nel momento in cui hanno capito che c'era movimento su Higuain, di andare a prendere Icardi. Però ti posso dare, guarda, in tempo reale la posizione dell'Inter. Icardi non si vende neanche di fronte a 70 milioni di euro. Questa è la posizione dell'Inter. Quindi il Napoli parte già male su Icardi, al di là dell'incontro che c'è stato oggi con un intermediario per parlare appunto di quello che potrebbe essere il suo futuro. Perché tu puoi dare anche dei soldi ai Icardi importanti, gli puoi lasciare il 50% dei diritti d'immagine, ma poi alla fine se l'Inter non lo vende diventa problematico, cioè bisognerebbe superare una soglia che in questo momento non credo il Napoli possa fare per un attaccante, quindi alla fine credo che Bacca possa essere forse l'ipotesi più accreditata. Su Amsic, vabbè, Amsic andrà al rinnovo del contratto, però sai, i giocatori non sono tutti uguali, ognuno fa scelte professionali diverse e quindi bisogna accettarle, anche se fa molto male, capisco, al napoletano vedere il loro campione andare alla Juventus. Beh, Giuda Higuain è il nuovo epiteto, Nicolò, hai sentito... Sì, ho sentito di peggio, devo dirti la verità. Ho sentito di peggio anch'io, con un po' di pazienza, un po' di calma, insomma, si può risolvere tutto. Però per il Napoli il mercato è complicato, il mercato è complicato, ha ricevuto un sacco di rifiuti, adesso sì, perderà il suo Masaniello, il suo Totem... Poi io sono per un'idea un po' laica, no? Cioè, questi sono professionisti, vanno non dove li porta il cuore, ma dove li portano il grano e l'ambizione, e quindi non bisogna chiedere loro quello che loro non sono capaci di dare. E non vogliono dare, e giustamente non daranno perché sono professionisti. Fatto sta che per il Napoli diventa un mercato particolarmente complicato. Sì, complicato perché, come ti dicevo, andare a sostituire Gonzalo Higuain non è facile. Io ho sentito e ho visto anche tanti nomi, no? E si va addirittura a quello di Morata, ma Morata è andato via dalla Juventus per tornare al Real Madrid. Io non penso faccia il giro opposto, cioè riprenda l'aereo da Madrid per ritornare in Italia. Poi comunque sia, ha un ingaggio pesantissimo, non so quanto, ecco. So per certo che Sarri considera Icardi il giocatore ideale per dare continuità, no, a quello che è il progetto Napoli. Senti, con ma, la partenza, Nicolò, di Gonzalo Higuain. Ma questa storia per cui oggi c'è stato questo incontro tra De Laurentiis e un fantomatico intermediario di Higuain, e la signora Icardi, Vandanara, ha twittato: sì, io sono nel mio ufficio a Milano, c'è stato questo incontro tra un intermediario e De Laurentiis. Leggimi un po' questa vicenda, che è un po' ridicola, se vogliamo. Ma io che ti devo dire, insomma, diciamo che è come se lei avesse dato la delega, diciamo, a una persona sua fidata per andare a parlare con il Napoli. Io trovo anche tutto abbastanza curioso, nel senso che comunque ci sono anche i telefoni, no? Voglio dire, per cui non è che c'è bisogno di avere contatti, anche di parlare. Io credo che sì, forse il Napoli in questo momento vuol dare anche una risposta a questa situazione. Devo dirti la verità, nelle ultime 24-48 ore, da quando è venuta fuori la notizia di Higuain, c'è stato un silenzio assordante in casa Napoli, no? Che fa fatto più effetto anche delle dichiarazioni e delle parole che per certi versi sono state pronunciate in questa settimana. E non è facile per il Napoli, perché se ci pensi bene il Napoli deve fare anche un centrocampista, sta cercando di prendere Tolisso a tutti i costi dal Lione, perché questo è un altro giocatore gradito a Sarri, però è chiaro che in questo momento senza Higuain devono dare una risposta forte. Io credo che Icardi al momento sia nella categoria, non ti dico dei sogni, perché i sogni insomma si possono sì realizzare e anche non realizzare, però nella difficoltà da 0 a 10 siamo a difficoltà 10, sì, per strappare sì, i cardi all'Inter. Quindi magari Bacca è più semplice, perché comunque sai che costa 30 milioni, sai quanto guadagna, sai quello che è l'accordo tra il Milan e il West Ham e puoi fare l'operazione, però anagraficamente parlando non è più un giocatore alla Icardi, cioè anagraficamente secondo me, anche sì, dal punto di vista proprio emotivo, caratteristiche diverse, anche emozionalmente è un giocatore diverso, oltre che tatticamente, tecnicamente. Io credo che Icardi possa essere il prosieguo della storia di Higuain, anche se secondo me non diventerà mai forte come Higuain, però anche per caratteristiche emotive potrebbe essere quello in grado di sostituire il Pipita. Cosa è che l'Inter non lo vende, Icardi non si muoverà di lì nonostante gli sbattimenti della signora Mandanara. Grazie Nicolò, alla prossima. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio, un abbraccio, a presto. Allora, ci fermiamo per una breve pausa. Ho anche questo messaggio: capolavoro De Laurentiis, questo via WhatsApp 349-238-6666, ha raggiunto il suo obiettivo ed è riuscito a dare la colpa al Pipita. Siete d'accordo? 800240024. La Juventus è una società con una sua classe e che non andrà a disturbare questo discorso. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Aspettavo da Higuain, sì è vero, vuole vincere, c'ha un'età, vuole arrivare comunque dove vuole arrivare, però sinceramente forse non ha capito che significa giocare nel Napoli, essere napoletano, sposare la causa della napoletanità. Sono rimasto scioccato da quello che ha fatto Higuain, lui rimpiangerà tutto questo, perché l'amore che ha in napoletano per lui non lo troverà da nessuna parte. Ma per me il traditore è De Laurentiis, in verità. Bravissimo. Perché ha tradito la nostra fiducia, ma no, da sono 12 anni, è vero, noi stavamo in Serie C, non veniva lui, veniva un altro, eppure quell'altra persona faceva un successo. Il signore Higuain, quando è venuto a Napoli, non era nessuno, l'abbiamo polarizzato, l'abbiamo fatto diventare un campione, l'abbiamo fatto diventare un grande, e poi adesso se ne vuole andare. Bellissimo questo montaggio. Io oggi voglio sentire le ragioni del cuore dei tifosi del Napoli, ma anche della Juventus, perché secondo me tolto Pogba, messo Pjanic, messo Piazza, messo Higuain al centro dell'attacco con Dybala, si profila una Juventus ancora più competitiva rispetto a quella dell'anno passato. Diamo per fatti questi affari. Però secondo me la Juventus è più competitiva, più forte rispetto a quella del recente passato. Questo non vuol dire che vincerà la Champions League, perché partire con l'obiettivo di vincere la Champions League è una totale utopia, perché una la vince e altre, altrettanto forti economicamente, tecnicamente, politicamente, non la vincono. Però la Juventus è nel gota in questo momento delle squadre che possono legittimamente ambire alla Champions League, dando per fatti tutti questi affari. 800240024, ma a me oggi interessa la voce del cuore. Abbiamo sentito i cori già dei napoletani ieri sera a Trento contro Higuain. Abbiamo sentito le voci di alcuni tifosi, chi è colpa di Giuda Higuain, per chi è colpa di De Laurentiis, che ormai da molti anni non mantiene promesse. Non capisco questo concetto, perché secondo me De Laurentiis sta gestendo in maniera, dal punto di vista manageriale, eccellente il Napoli. Ogni giocatore ha un prezzo, aveva un prezzo Lavezzi, aveva un prezzo molto elevato Cavani, e De Laurentiis è riuscito comunque a costruire una squadra che sta facendo il massimo di quello che può fare, cioè rincorrere a perdifiato e fino a quando è possibile una Juventus che, vogliamo fare come gli allenatori e parlare di budget, dal punto di vista del budget è irraggiungibile per il Napoli, così come per le altre contendenti, le altre competitors italiane. Giovanni, buongiorno. Sì, buonasera, la ringrazio, è un po' di tempo che aspettavo. Comunque volevo correggere l'amico di prima, che non è Giuda Higuain, ma è praticamente Giudain. Giudain. Sì, Giudain. Praticamente. Comunque io. Quindi date retta De Laurentiis, cioè Masaniello, no, è venuto Giudain a cantare sotto la nostra curva, era il nostro capo popolo, era il nostro capo giocatore, era il nostro simbolo, il nostro totem, sì, simbolo, ed è andato a. Andato a giocare per gli avversari storici? Sì, ma guardi che dopo Maradona, lui era tranquillamente il dopo Maradona, cioè non come Maradona, ma dopo Maradona, cioè esaltato, acclamato come a momenti come Maradona, e se rimaneva ancora aveva un po' di pazienza, che De Laurentiis metteva ancora in sesto un po' la squadra, se aveva un po' di pazienza poteva anche, ecco così, rifiutare, diciamo, le offerte. Giovanni, posso chiederle una cosa? Sì. Posso chiedere una cosa? Dimentichi di essere tifoso del Napoli. Faccia finta di essere Higuain. Sì. Anni quasi 29. Ti chiama la Juventus per vincere la Champions League. Ti dà 7 milioni e mezzo netti l'anno. Il Napoli comunque prende tanti soldi, perché prende tanti soldi. Io avevo la storia dei diritti d'immagine. Sì, la storia dei diritti d'immagine, va bene tutto, però era al 50%. Ma lei, mi dica la verità, cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto di no alla Juventus? No, io non avrei detto di no, però perlomeno mi sarei comportato da persona corretta, nel senso di dire: guardate tifosi del Napoli, io vi voglio bene, ma purtroppo ho questa offerta e tenderò ad accettarla. Mi dispiace tutto quanto, non so, vi saluto, magari una cosa del genere, ma no, magari lo farà, magari lo farà, no? Ma è tardi, mi scusi, ma è tardi. Beh, è tardi. Higuain pare sia Ibiza, abbiamo provato a capire dove sia, ma non si è ancora palesato. Io credo che lo farà, cioè non è uno stupido e mi sembra anche un ragazzo di cuore. Quindi è un professionista, però è un professionista del calcio, e io chiedo a voi tifosi del Napoli, ma ditemi la verità, avreste fatto qualcosa di diverso? Magari sì, per ragioni affettive, ragioni di cuore. Non dimentichiamo che i tempi di Maradona erano gli anni 80 e 90, adesso credo sia un'altra epoca, un'altra era geologica, anche per i professionisti del pallone. Paolo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un tifoso juventino e volevo dire che purtroppo il Napoli avrà grossi problemi nell'acquisto di un grande centravanti, perché se ci fosse stata la possibilità sicuramente la Juventus non avrebbe speso 94 milioni di euro per comprare Higuain, avrebbe preso Icardi, avrebbe preso Cavani, però probabilmente però mi perdoni, Icardi non è Higuain. Cavani è un giocatore che dopo alcune stagioni altalenanti, senza grandi fortune al Paris Saint-Germain, mi sembra vagamente sul viale del tramonto. Magari ha bisogno di una piazza per rilanciarsi, per giocare in maniera stabile, per essere al centro del villaggio, come diceva Garcia, no? Come è stato per Tevez, magari. Certo. Però attualmente non si pone il confronto tra Higuain da una parte, Icardi, Cavani e altri che lei mi vuole dire dall'altra. Io pongo il confronto tra Higuain, Lewandowski, Suarez, ovviamente Cristiano Ronaldo, tra i grandissimi attaccanti mondiali. Higuain fa parte di quel gota. Esatto, e quelli sicuramente non si muovono. La Juve ha dovuto comprare Higuaín, il Napoli avrà problemi a rimpiazzare Higuaín, anche secondo me anche con Icardi. L'Inter non credo che venderà Icardi. E poi un'altra cosa, io ricordo nel 2006 quando siamo andati in Serie B, ci hanno smembrato la squadra, i giocatori sono andati via per pochi soldi, quindi cioè, non è, io non credo che sia colpa di Higuaín. Higuaín è andata alla Juve per vincere, ha un contratto più ricco, dispiace che l'abbiano presa così, ma purtroppo il calcio oggi è così. Noi allora, lasceremo andare Pogba per 120 milioni di euro. E la Juventus secondo me non sarà più debole rispetto all'anno passato. No, neanche secondo me, no. Secondo me sarà molto più forte e potremmo finalmente puntare a vincere questa Coppa. Sì, guardi, puntare a vincere quella Coppa, l'importante è essere nel gota ristretto delle squadre che legittimamente a pieno titolo possono ambire a vincere quella Coppa. Poi la Coppa è una questione di stelle, basta chiedere al Milan un tempo sbagliato e ciao Coppa. Quindi su un torneo così, che è uno sprint, no? Che sono i 100 metri, non si possono fare ragionamenti di questo tipo. Puntiamo a vincere la Champions League, certo sei nel ristretto gota delle squadre che possono legittimamente ambire dal punto di vista tecnico e di completezza per vincere quella Coppa. Poi il resto è questione abbastanza di stelle. 800 24 00 24, io poi ho Paolo, Giampiero, Vittorio, mi fa un gran piacere oggi domenica parlare con gli ascoltatori del caso Higuaín e di tutti i casi di questa settimana. Mi sembrerebbe veramente il re dell'assurdità Higuaín se facesse una cosa del genere. Tutti convocati. Tutti convocati. Voglio aggiungere un concetto che è questo. Con il fratello di Higuaín, Nicolas, il suo agente, che mi sembra un po' più così nella parte rispetto al procuratore di Icardi, Nicolas Higuaín ha detto: non andremo a rinnovare, a prolungare il contratto con il Napoli. Con la stagione che ha fatto Higuaín, con quella clausola rescissoria, io ho sempre detto, e non mi tiro indietro adesso, ora o mai più, per monetizzare, lo so, sembro cinico, magari lo sono, per monetizzare comunque questo giocatore e magari per ricostruire il Napoli. Vorrei che Antonio Giordano, che è uno dei miei interlocutori privilegiati dal Corriere dello Sport in questi giorni, rispondesse ai tifosi, agli ascoltatori che sono in linea. Ciao Antonio. Grazie del privilegio, buona serata ai radio ascoltatori. Grazie a te. Allora, ti faccio sentire cosa dice Giampiero da Chieti e poi Vittorio da Napoli. Giampiero, buongiorno. Salve, salve, grazie di avermi convocato. A lei, dica. Ascolta, senti, ma per quanto riguarda Napoli città, sono simpaticissimo, io ci lavoro, mi trovo benissimo con loro, poi hanno un presidente con quegli occhi fuori dalle orbite incredibile, però loro il salto di qualità devono fare, basta con la partita della vita, il 2 aprile, cioè un campionato fatto per una partita, è questo che devono, penso che sia d'accordo con me, o no? Fare questo salto di qualità, di pensare al campionato... Cioè lei dice basta considerare la partita della vita quella con la Juventus, la classifica dice questo, cioè non è questione di scelte, non è nemmeno questione del derby di Roma. È diventata la partita della vita perché Napoli e Juventus sono state le grandi protagoniste degli ultimi campionati. È così. La statistica dice che vincono soltanto il Napoli e la Juventus, ovviamente la Juventus molto di più e anche cose più importanti, ma il Napoli è l'unica società che è riuscita a strappare 2 trofei alla Juventus negli ultimi 3 anni. Quindi? Quindi è la partita della vita, il salto di qualità il Napoli l'ha fatto, perché appena 7 anni fa, 8 anni fa, rientrava in Serie A, ora è tra le grandi protagoniste. La penso come te, ci sono momenti nella vita in cui bisogna cogliere le grandi occasioni. Il Napoli non avrebbe mai voluto vendere Higuaín, non l'avrebbe venduto se non ci fosse chi ha presentato la clausola. La clausola non è una promessa a vendere, è un estremo tentativo di vendere però a prezzi che sono onestamente fuori mercato. Clausola è un contratto di diritto privato, certo, ed è perfettamente legittimo. A me credo che si stia banalizzando un po' sui 90 milioni. Sarà che sono troppo povero, mi sembra un'enormità. Banalizzando in che senso? Mi sembra che si stia riducendo un affare clamoroso, storico, il terzo per entità nella storia del calcio mondiale. quello più importante dal punto di vista economico del calcio italiano, a una questione così quasi marginale, che sia diventato principale tutto ciò che stia ruotando intorno all'affare stesso, cioè l'affare di cuore, il sentimento, il romanticismo, il tradimento. È come ma sono fare 90, $90 milioni di euro. Ma è come fare un amico mio, è come fare un grande polpettone di tutto questo. Sono curioso di sentire su questa considerazione, che io condivido peraltro, Antonio Giordano. Antonio, ti ho perso per un secondo. Mi hai perso per un secondo. No, sì. dicevo che ero curioso di, appunto, di sentire la tua su questa questione. Ma sì, io penso che ci sono momenti in cui certe cose, poi, a parte che non l'ha deciso nessuno, se non soprattutto Higuain e la Juventus, con la forza che le va riconosciuta, la forza anche intellettiva di un gruppo dirigenziale che non ha avuto alcun tipo di remora nell'investire una massa così smodata di denaro. Però doveva succedere. È chiaro che fa male al tifoso napoletano, ma è chiaro che mi sembra qualcosa che vada ben al di là della consuetudine. Senti Antonio, ma secondo te De Laurentiis ha ottenuto l'effetto che voleva, che sperava, aizzando, come abbiamo sentito, tu ieri eri a Trento, hai visto questa amichevole del Napoli, hai sentito quei cori, ha ottenuto l'effetto sperato nello spostare la colpa su Higuain, che adesso è diventato il traditore Giuda Higuain, Giuguain, quello che vogliamo, ha ottenuto quello che voleva? Credo di sì. Credo che sia convincere, non dico generale, ma della maggioranza, che in questa vicenda la scelta sia stata di Higuain, non del Napoli. Beh, insomma, non del Napoli. Il Napoli comunque incassa una clausola rescissoria. Certo, adesso è chiaro che è stabilita. Però quello che chiedo anche ai tifosi napoletani adesso: levatevi la maglia azzurra, mettetevi nei panni di Higuain. Ho quasi 29 anni, vorrei andare in un club che ha legittime ambizioni di vincere la Champions League. Mi danno 7 milioni e mezzo netti l'anno. Che devo fare? No, ma se uno non ragiona di pancia, esatto, e lo fa con un minimo di razionalità. Esatto. È tutto giusto. È giusto persino che la Juventus faccia qualcosa di eccezionale. È giusto che Higuain ragioni da Higuain, cioè da azienda di se stesso. È giusto che il Napoli, nel momento in cui ha acquistato Higuain per la cifra di 40 milioni, decida di stabilire una clausola che sia superiore persino al doppio, perché la clausola viene stabilita nel 2013. Certo. Quindi ha un prezzo che già 3 anni fa è di gran lunga fuori dal mercato. Poi è chiaro, esistono anche i sentimenti, da cui non ci scappa, per l'amor di Dio, ma vale per chiunque, ma e per fortuna che esistono. Però credo che il Napoli non possa rimproverarsi nulla, se non quella di aver dovuto accettare, come dire, che il giro complesso del mercato portasse proprio la più grande avversaria intorno al suo giocatore più forte. Che vuoi fare? Potevano arrivare poche altre, però, onestamente, al mondo. Sì, potevano arrivare le inglesi, potevano arrivare le big spagnole, ma insomma, erano arrivati i cinesi. No, però, vabbè, i cinesi lasciali stare. Con tutto rispetto per i cinesi, però tu sei un top player, vai a giocare in Cina, non mi sembra il caso. C'è chi scrive, ed ha ragione, la domanda da fare ai tifosi del Napoli non è ; se tu fossi Higuain, ma è tu andresti alla ditta concorrente se ti propongono il doppio dello stipendio e migliori possibilità di carriera? Punto di domanda, chiuse virgolette, firmato Antonio. Rossano, buongiorno. Buongiorno, mi permetto di non essere assolutamente d'accordo con il tuo collega. Meraviglioso. Sono completamente d'accordo con te allora. Sì, ma... Meraviglioso, perché se siamo tutti d'accordo ci rompiamo le palle in maniera clamorosa. No, sostiene che il Napoli ha fatto un salto di qualità. Ma Napoli non ha fatto un salto di qualità, non ha sfruttato, non ha utilizzato tutti questi anni per adeguare le proprie strutture societarie, stadio, centro di allenamento e altre strutture ai livelli di top club europei, di cui la Juve fa parte, ma principalmente proprio per lo stadio e la struttura. Quindi un professionista, quindi Higuain è un professionista, ha valutato anche queste cose, oltre che lo stipendio, oltre che la possibilità di vincere. Quindi, oltre il sentimento e tutte queste cose che sono positive per un tifoso del Napoli, un po' di autocritica su questo punto io mi sentirei di farla. Che possiamo, Rossano, che possiamo estendere a tutti gli altri club italiani. Nessuno escluso, perché la Juventus è l'unica società italiana amministrata, lo dico tutte le volte, in modo contemporaneo. Quindi non è che l'Inter e il Milan abbiano, o la Roma, abbiano migliori condizioni strutturali, migliori condizioni di fatturato rispetto alla Juventus. Antonio? Diciamo questo. Devo dire, visto, Rossano, però fammi difendere. Si parlava prima di miglioramento tecnico e non credo che sia discutibile il miglioramento di una squadra che è arrivata anche seconda in campionato e ha lottato con la Juventus fino alla partita di Udine. Per quanto riguarda le strutture sono completamente d'accordo con te, ma c'è da aggiungere una cosa: quando Higuain è arrivato a Napoli aveva già visto che strutture c'erano e poi comunque non siamo a livello da terzo mondo. Onestamente non vorrei che passasse questo concetto. Certo, lo hai già fatto benissimo tu. Il calcio italiano è in ritardo rispetto alle altre, il Napoli è, rispetto al calcio italiano, avanti. Poi mancherà qualcosa, per l'amor di Dio, o forse mancherà parecchio, però non credo neanche che sia il frutto del caso che questa squadra sia arrivata seconda l'anno scorso, quinta 2 anni fa, terza 3 anni fa, che sia arrivata in semifinale di Europa League, abbia vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Cioè non vorrei che venisse, come dire, ridimensionato qualcosa che è accaduto, altrimenti siamo alla demagogia pura. Bravo Antonio, mi dispiace tantissimo, ma sono d'accordo con te, mi dispiace tantissimo per il dibattito che è molto interessante. Che vuoi che ti dica, io continuo a considerare Napoli in questo momento dal punto di vista calcistico una grande realtà europea. Io continuo a considerare il Napoli in questo senso. Vittorio, buongiorno, da Napoli proprio. Ciao, buongiorno. Ciao Vittorio. Ciao. Dimmi. Niente, ascoltavo la chiacchierata. Volevo dire che si sottovaluta il fatto che la Juve ha pagato Higuain 90 milioni di euro per un calciatore di 29 anni e che ha fatto le prime due stagioni a Napoli 17 e 18 gol. Con Sarri ne ha fatti 36. Con Sarri. E l'abbiamo sostituito Higuain a Cavani, eppure all'epoca si diceva sostituire Cavani sarà impossibile, trovare un attaccante del valore di Cavani, sì. Quando prendiamo Higuain per 40 milioni è stato sopravvalutato, non vale i soldi, e poi alla fine Higuain adesso è un top player. Quindi prima sentivo dire il mercato in Napoli adesso si complica, perché adesso trovare un sostituto di Higuain sarà difficile. Come Cavani, era difficile all'epoca con Cavani. Trovare un sostituto del Matador sarà impossibile, e poi abbiamo trovato Higuain. Quindi a Napoli abbiamo incassato 90 milioni di euro e sono convinto che troveremo con Sarri un attaccante che farà, non dico i 36 gol di Higuain, ma ne farà 30 con Sarri. Lascio 30 secondi la replica Antonio Giordano, poi devo andare in GR. Antonio. Condivido, c'è un pessimismo diffuso che poi il tempo cancellerà. Penso che il prossimo acquisto, col profilo ideale, il Napoli ha la voglia di sacrificare tutto quello che ha incassato, non per un centravanti, ma per rifare nei modi giusti la squadra, finirà per cancellare immediatamente questa ventata d'amarezza. Facciamo subito il nome. Io penso che un Icardi possa bastare. Grazie Antonio. Buona giornata. Ciao Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Ci fermiamo, ma ricominciamo subito dopo il GR. 800 24 00 24, numero verde. Calma. Il mercato è appena cominciato. Tutti convocati. Tutti convocati. Io saluto Roberta Frisani che è arrivata in redazione, in regia. Ciao Roberta. Mani buoni amici in redazione. Mi fa piacere che in questa domenica di fine luglio ci siano così tanti ascoltatori che ci vengono a fare compagnia. Ma tanto noi siamo qui, tutta l'estate in diretta. E poi per le Olimpiadi ci divertiamo, perché oltre all'appuntamento pomeridiano con tutti i convocati, che sarà in periodo olimpico, quindi dal 1° di agosto fino alla fine delle Olimpiadi, dalle 14 alle 15, quindi sconto di mezz'ora, però raddoppiamo, e ve lo dico, lo dico a tutti, comunicazione di servizio, ma non solo, alla sera dalle 18 alle 20 per parlare di Olimpiadi e dintorni, non solo di sport, ma di come vivremo questo evento olimpico di Rio. Gabriele da Roma, buongiorno. C'è Boris Sollazzo, buongiorno Boris Sollazzo. Buon pomeriggio a tutti. Giù da Higuain? No, non guarda, chi, io sono sempre del parere Juguain l'hanno battezzato. Sì, ma quando ti lasciano se ne andassero, insomma, non è, non è un problema. Io già penso a Maurito, devo essere sincero. Ti adoro. Pensi a Maurito? Sì, penso a Maurito. Io non ho mai rimpianto, come dire, le occasioni perse. Guardo sempre alle occasioni future. Bravo, a 29 anni, bravo. Prendere 94 milioni di euro da un giocatore è un colpo gobbo, mi sembra. Di sicuro l'affare l'ha fatto il Napoli, poi se lo farà anche la Juve. No, l'hanno fatto tutte e due, perché la Juventus con Higuain è chiaramente più forte. Cioè, togli Pogba. Conosco il mio pollo, io non so se alla Juventus farà quello che abbiamo visto a Napoli. Anche perché rifare 36 gol mi sembra piuttosto complicato anche in una squadra come la Juventus, però tolto Pogba, Messi, Piazza, Pjanic e qualcun altro che arriverà, oltre a Higuain, a me sembra una Juventus più forte. Comunque, da critico cinematografico, sei già pronto al prossimo cinepanettone con Bandanara, giusto? Perché... io e questo lo voglio, anzi, lo dico ad Aurelio. Aurelio, tu offri 5-6 milioni di euro, quello che vuole Icardi. Poi offri il Bandanara, il cinepanettone, secondo me... Annaggia, ti sento male, il concetto l'ho capito, però stai lì, perché parliamo con gli ascoltatori. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Io volevo riprendere, avevo due o tre osservazioni rapidissime, una proprio sul tema fedeltà. Ho tre domande io per te. Come? Ho tre domande per te, come cantava Di Gabriele. No, dico, da tifoso juventino devo dire che Higuain non l'avrei preso, perché è come quando esci orgogliosamente con la fidanzata di un altro, questa esce di nascosto, ma tu sai benissimo che poi subirai lo stesso trattamento. Uno. Due, anche io sono convinto che dopo una stagione in cui ha stragiocato e strasegnato sarà difficile che possa fare lo stesso livello di prestazione. Altro aspetto, anche se ho un giudizio che ometto per amore degli ascoltatori sul presidente del Napoli, però questa volta... No, io perché ometterlo? No, non lo ometta, che no. Poi le faccio rispondere da Boris Sollazzo, per favore. No, non posso, anche per la mia professione. Ma comunque, volevo dire che sicuramente... mentre la Juve concentra un rischio molto elevato di 94,7 milioni su un giocatore, con 94,7 milioni invece il Napoli può comprare più giocatori, e quindi mi sembra un errore strategico. In più la legge dei grandi numeri si gioca contro, perché non si è mai fatto male, ha giocato sempre con grande grinta. Devo dire che ho sempre visto in Higuain la testa del professionista che vuole vincere e a differenza di Batistuta e Totti si muove per vincere, cosa che ho sempre imputato a questi giocatori fortissimi, ma che poi non sono mai andati a volersi misurare dove si può vincere qualcosa. Sommato tutto quello che ho detto, la Juve è un giocatore parzialmente traditore, non lo doveva comprare perché ha costruito la sua storia su gente che invece ha il valore della fedeltà, vedi Buffon e Del Piero. Quindi per me Higuain doveva rimanere lì, i 94 li dovevamo tenere noi e prenderne 120 per vendere Pogba prima di subito. Questa è la mia opinione. Quindi hai sentito Boris Sollazzo, intervento molto cinematografico, stiamo parlando di corna e di fidanzate altrui. No, ma devo dire che poi ha parlato con un libro stampato l'ascoltatore, voglio invitarlo a cena perché questo mi consolerà sicuramente di più. Però devo dire che io voglio vedere Higuain fare la vita che faceva a Napoli, farla a Torino, credo che non gliela faranno fare nemmeno per 15 minuti, ma soprattutto voglio vedere il buon Higuain fare una delle scene che faceva Insigne e Goulam, farla all'Ixtiner. E credo che non ne uscirà vivo nel momento in cui gli urlerà contro. Cioè, non sono sicuro che sia un giocatore da Juve, e lo dico con ammirazione per il modello Juventus. Arriva da Real Madrid, cioè non sì, dimentichiamo il suo escursus. In cui però sappiamo che insomma i giocatori fuori non è che proprio non vivano in convento. Cioè, ha una serie di piccole imperfezioni che a Napoli, come succedeva anche con Maradona, venivano sopportate, perché poi appunto la domenica lui giocava benissimo. Però io ricordo sempre che uno come Vidal, che giocava benissimo, alla fine veniva messo fuori rosa e poi è stato anche venduto. Quindi non lo so, insomma, io ho i miei dubbi che Higuain sarà a quei livelli. So che noi abbiamo fatto un affare, perché meglio di così non lo potevamo vendere. Questo la è sicuro. Juventus nel peggiore dei casi ne farà uno altrettanto importante, ma non ne sono sicuro. Sì, il problema è chi prenderà adesso, perché non mi sembra che il mercato offra un'alternativa plausibile ad Higuaín. Si parla tu dicevi Mauro Icardi, va bene, al di là del fatto che ti devi prendere la signora Vandanara, il cinepanettone, tutte queste cose qui, l'Inter non lo vuole vendere e la quotazione è piuttosto alta, mi sembra un affare di difficile soluzione. Ma però è il classico giocatore che secondo me interessa a De Laurentiis, perché è giovane, verrà rivenduto anche lui, mentre tutti gli altri di cui si parla hanno 29, 28, 30 anni e non avrebbero questo vantaggio, quindi io credo che andrà su Icardi, su Morata, oppure magari sceglierà di rinforzare un altro reparto con grandi giocatori e punterà su Gabbiadini. Però insomma credo che Icardi sia proprio l'identikit del giocatore che possa piacere a De Laurentiis. La verità è che, come dice l'ascoltatore, quei 94 milioni di euro sono un'opportunità che tu devi spendere al meglio, anche senza farti strozzare dalle aspettative dei tifosi, che in questo momento sono agitati. È evidente. Chiaro. Anche a me ha preso un colpo ieri, ma più che altro perché se fosse successo come con Cavani, che a inizio luglio tu lo sapevi, avevi due mesi per rifare la squadra, ok. Il brutto di quello che ha fatto Higuaín, al di là di essersene andato come un ladro, di aver chiamato Sarri e poi dicendo che veniva a Di Maro e poi fare le visite mediche, cioè proprio la meschinità comportamentale, e c'è anche il fatto che fino al 24 di luglio tu hai fatto una programmazione, adesso ne devi fare un'altra, quello mi preoccupa. Sì, sono d'accordo Boris, sono d'accordo. Cioè, quello lo trovo molto scorretto, e ha ragione l'ascoltatore juventino quando si preoccupa, perché insomma mi sembra che lui l'abbia sempre fatta questa cosa, e quindi insomma non mi dà la stessa fiducia che mi potrebbe dare un Buffon. Senti, poi io via SMS ho una domanda, cito testuale, leggo testualmente, per il bravissimo Sollazzo: se potesse prendere uno solo fra Icardi e Morata, chi prenderebbe? Icardi, perché Morata secondo me è più forte tecnicamente, però Morata ha gli stessi limiti comportamentali secondo me di Higuaín. Invece il Napoli deve prendere perché uno che poi appunto per una piccola depressione così insomma ha fatto mezza stagione sbagliata. Icardi anche quando gioca con il giocatore più scarso del pianeta segna sempre quei gol. Il Napoli serve uno che ha fatto da giovanissimo il capitano dell'Inter, che è abituato a determinate pressioni, che tutti lo maltrattano, perché poi quando viene a Napoli ti maltrattano. Non c'ha bisogno di uno che a Udinese-Napoli prende e ha una crisi isterica, con tutto che io l'ho difeso e con tutto che l'ho capita. Sì, ricordo, ricordo. Bisogna costruire secondo me una squadra caratterialmente più forte, e Icardi ha quella cazzimma che secondo me Morata non ha, sebbene Morata secondo me sia più forte tecnicamente, però, e poi è più funzionale al gioco di Sarri, cioè Icardi è uno che già sa muoversi come vuole Sarri. Se voi pensate che Sarri insegna di Higuaín ad andare sul primo palo, no, lo certo, mai. Certo. No, ma guarda, io ti dico dal primo minuto dico che Icardi pur non essendo Higuaín, e magari non lo diventerà mai forte come Higuaín, è dal punto di vista tecnico-tattico e di Gazzim e di tutto quello che vuoi il sostituto ideale per il Pipita, per molte ragioni. Mi sembra una questione piuttosto difficile dal punto di vista del mercato. Boris, ti chiedo un secondo, ho il traffico, poi rispondiamo insieme a Francesco da Venezia e poi ti lascio al cinema. Tutti convocati. Convocati. Tanto ne leggo di tutti i colori, cioè ad esempio Napoli spunta la pista Tevez, Bacca in pole position. Bacca a me non sembra, per le ragioni di cui sopra, tecniche, tattiche, fisiche, caratteriali, sostituto ideale per Higuaín, però mi sembra anche una opzione non difficilmente praticabile in questo momento e in situazioni di emergenza. Boris Sollazzo sempre collegato con noi. Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Dica. Ok, senti, io volevo porre l'accento sull'intervista che rilasciò il fratello di Higuaín alla radio. L'ho trovata estremamente sgradevole e secondo me lì già si capiva qualcosa, perché il fratello di Higuaín ha cercato di mettere i tifosi contro la società e nella persona di De Laurentiis. Cioè, ci riferiamo all'intervista in cui ha detto non rinnoveremo il contratto? Sì, lui ha detto non rinnoveremo il contratto e ha spiegato i motivi, perché l'ha chiamato chiattone, che poi era pure vero, insomma, per un atleta. In quel momento aveva qualche chilo in più, tant'è vero che poi li ha persi, quindi tutto sommato, anche se la forma non era elegante, la sostanza c'era. E poi sul fatto lui racconta l'episodio in cui praticamente gli hanno, non so, tirato le pietre, cose. Io ricordo che lui, quando ha sbagliato il gol in finale con l'Argentina, ha litigato fuori una discoteca in Argentina, si sono pigliati a botte, c'era anche il filmato. Lui non ha mai detto abbandono l'Argentina per questo motivo. Quindi mi è sembrato strumentale la questione posta dal fratello. Cioè lui vuole mettere i tifosi contro la società, e questa è una cosa che la trovo estremamente scorretta. Tu te ne vuoi andare, è legittimo. Aspiri a lavorare nella più grande azienda italiana calcistica e lo trovo legittimo. Ma che tu invece cerchi di speculare su questa situazione, no, questo non sta bene. Questo dimostra che, diciamo, è un po' infantile. Poi mi trovavo d'accordo con chi diceva prima che il Napoli in effetti ha fatto un affare. Questa Boris Sollazzo, che è collegato con noi, la sta ascoltando e tra poco le risponderà. Dica. 29 anni in affari, insomma, sicuramente farà qualche altro campionato ad alto livello, sicuramente, perché comunque è un fuoriclasse, e sicuramente la Juve si è iper rafforzata con lui e con gli altri calciatori. Però il Napoli che doveva fare? Cioè, il Napoli non può fare niente, arriva la società, ti dai i soldi, te ne vai. È ovvio che lui, quegli atteggiamenti che aveva in campo, un po' da prepotente, io penso per esempio che Insigne si gioverà della sua mancanza, perché crescerà di più. E vorrei vedere chi gli dà i palloni, chi gli dà Insigne, perché se è vero che Higuaín ha segnato tanti gol, è anche vero che Insigne l'ha messo in condizione di fare tanti gol. Non so se alla Juve troverà un altro come Insigne con le stesse caratteristiche, perché Insigne si è sacrificato per Higuaín. Insigne ha dovuto rinunciare spesso poteva tirare e non ha tirato, proprio perché era condizionato dalla presenza di Higuaín. Per quanto riguarda invece l'attaccante da acquistare, dico la mia. Perché spendere tanti soldi per Icardi, che secondo me comunque non verrà, e credo che dal punto di vista della gestione del calciatore sia identico a Higuaín, se non peggio. Questo fra due anni ti chiederà 100 milioni di ingaggio per andare. La butto lì, può essere una cavolata. Balotelli, che ha detto che lui vuole diventare, vuole mettere a testa a posto e vuole diventare, vuole vincere. Questa è bella. Voglio sentire subito Sollazzo. Costa pochissimo, nessuno lo vuole. Cioè, il Liverpool ha detto: guarda, prova a trovarti in altra squadra, che qui non è aria. Il Milan non ne vuole più sapere. Ci sono magari offerte con gli occhi a mandorla dalla Cina, però mi sembra insomma, presto per andare al cimitero degli elefanti. Boris Sollazzo, su questi temi mi dica. Ma io sono molto affascinato dall'ipotesi che dice l'ascoltatore, perché io sono convinto che il Napoli dovrebbe sparigliare, nel senso che noi ci troviamo di fronte a una Juventus che adesso ha un attacco straordinario, un centrocampo che insomma potrebbe avere dei problemi, perché Chiedire infortunato spesso, Marchisio che non rientrerà dopo un po', Pogba che se ne va, almeno come sembra, e io andrei magari invece a rafforzare proprio il centrocampo, cioè magari spenderei 50 milioni di euro per Rakitic e davvero proverei la scommessa a Balotelli, magari mettendolo vicino a Tevez, che potrebbe essere motivato, insomma, no, dal ritorno, dallo stadio che fu di Maradona, anche da una rivincita, insomma, no, contro la Juventus, che in fondo senza di lui ha fatto bene lo stesso. Quindi sono abbastanza d'accordo che si potrebbero sparigliare le carte, anche perché il problema del Napoli in questo mese è che tutti sanno che ha quei soldi e tutti sanno che ha bisogno di un centravanti. Con uno come Sarri, con cui secondo me uno come Gabbiadini può tranquillamente segnare 25 gol per il gioco che fanno. 25? Si potrebbe decidere roba, di... Tanta roba, Boris. 25 sono tanta roba, Io guarda, posso... giochiamoci una cena. Io credo che noi scopriremo che Higuaín ne segnerà 10-15 in meno e Gabbiadini 10-15 in più. Nel senso che faccio una pura questione matematica. Nei due anni di Benitez, Higuaín in campionato segna 17-18 gol. Con Sarri ne segna 36. Ora, è vero che il calcio non è matematica, però... qualcosa mi fa pensare che il gioco di Sarri si concentrasse molto anche su Higuaín e che lui fosse il terminale migliore. Quindi non vorrei che con vicino Dybala, con tanti altri giocatori che fanno un gioco diverso, forse Higuaín segnerà di meno. Ecco, invece Gabbiadini, che in fondo quando ha giocato ha segnato, ha avuto la stessa media realizzativa di Higuaín. Sì. Cioè forse potremmo trovarci, quindi sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che si potrebbe sparigliare un po' le carte, magari usare quei soldi per altro, per altri ruoli. In fondo con Cavani successe che si rifece la squadra, e adesso se il Napoli è una squadra di fascia più alta lo si deve a quella cessione. Certo, devo dire poi sulla capacità di Higuain, sulla moralità di Higuain, tra virgolette, Cavani fu molto più serio, cioè Cavani lo disse a maggio che se ne sarebbe... No, no, no, ma quelle di Cavani e di Lavezzi furono storie diverse, cioè c'era un accordo pregresso di un anno prima, ok, fai ancora una stagione qui e poi ti lascio andare. Comunque questa suggestione è molto intrigante, quella di sparigliare le carte di Tevez e Balotelli, di Rakitic a rinforzare il centrocampo in rottura con il Barcellona. Beh, sei veramente un critico dell'arte, Boris Sollazzo. Ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie. Quando vuoi. Grazie Boris Sollazzo. Voglio andare al Tour de France. Ormai è praticamente in vista del traguardo Chris Froome, la sua legge, la legge della maglia gialla, oggi senza ombra di dubbio la legge della più forte. Sono molto contento di avere la maglia gialla, vediamo, voglio tornare l'anno prossimo, è certo. Look at the stars, look how they shine. Il giorno che ho vinto in discesa a Luchon, quello giorno lì è un giorno che è rimasto con me per tutta la vita. Beh, direi dominio assoluto e incontrastato. Saluto come sempre Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao Carlo, buonasera. Saluto anche un nostro vecchio amico come Ivan Basso. Ciao Ivan. Buonasera. Ciao. Comincio da Ivan e poi apriamo il dibattito. Ti sei divertito a questo tour o troppo scontato, troppo forte From? Ma, troppo forte. Sicuramente ha dimostrato dall'inizio di avere questo tour in mano totalmente. Devo dire che è stato un tour con due emozioni diverse. È iniziato benissimo con Peter e poi abbiamo avuto la sfortuna con Contador delle due cadute nelle prime due tappe che ha compromesso il nostro obiettivo più importante, che era la vittoria di questo tour. E per come io ho visto lavorare Alberto in questi sei mesi, sono convinto che sarebbe stata tutta un'altra storia, ovviamente, ma questo non vuol dire che Froome non ha fatto un tour eccezionale. Ha dimostrato dal primo giorno di volere questo tour, ha lottato ogni traguardo, è attaccato in salita, attaccato in discesa, attaccato a cronometro, insomma, ha dimostrato di essere nettamente il più forte di tutti, sostenuto dalla squadra più forte. Sì, questo è indubbio, l'abbiamo sottolineato diverse volte io e Pier Augusto Stagi, no, Pier? Ma secondo te Contador era, perché qualcuno dice non è più uomo da Tour de France, Ivan Basso dice è un peccato non per quelle cadute non averlo visto competere, tu come la pensi? La penso che sicuramente Alberto non è più il Contador di qualche anno fa, ma è un corridore di una classe immensa, di un talento cristallino che avrebbe dato sicuramente più battaglia di Nairo Quintana. Deludente voto 5, giusto? Voto 5 a essere larghi perché comunque ha ottenuto un podio, ecco, è uno che riesce a deludere, però arriva terzo e quindi gli devi per forza di cose dare un 5. Di sicuro sono mancati due corridori, secondo me, oltre Contador, per ragioni strategiche, no? Per approccio mentale, è mancato anche Vincenzo Nibali, perché Nibali l'ha detto e l'ha dichiarato: io vengo al tour per aiutare Fabio Aru e per puntare ai giochi olimpici. Io dico, se invece avessimo avuto in corso un corridore come Alberto Contador e un Vincenzo Nibali, che non è Contador, ma lo ricorda per le sue sortite, per le sue invenzioni, per i suoi colpi di genio, sarebbe stata un po' più difficile, perché la Sky ha attuato una tattica elementare, anche se è comunque non facile. Elementare perché tenevano un ritmo elevato, come si dice in gergo, li ha rosolati tutti, a 50 all'ora tutti i giorni, e nessuno poi aveva la forza di scattare, inventarsi qualcosa. Conoscendo Alberto Contador e conoscendo Vincenzo Nibali, logicamente al top avrebbero comunque compaginato un po' le carte in casa Sky. Ivan Basso, come la pensi? Sei d'accordo con Staggi? Diciamo che non sono d'accordo con quelli che dicono che Alberto non è più in grado di vincere, ovviamente. Qualcuno l'ha detto, però, Ivan, tu lo sai bene. Ma ovvio, questo fa parte della critica sportiva, ognuno ha... lo sport è bello per questo, perché c'è, ognuno ha poi il suo punto di vista. Io penso che Alberto ha vinto il Giro dell'anno scorso, non è mai uscito dai primi due da febbraio ad aprile, nelle corse a tappe che ha fatto un Delfinato per preparare il Tour, e insomma questo è sufficiente per capire che dal mio punto di vista come dirigente della squadra era pronto per lottare per la maglia gialla. Sì. Poi, ripeto, è successo anche in passato, no? Che chi cade e si ritira ovviamente non deve recriminare nulla, lo sport è anche questo. Adesso Alberto ha degli altri obiettivi davanti e ha vinto comunque l'atleta che ha vinto gli ultimi due. Quindi, voglio dire, rimane... tre Tour de France non è cosa da tutti, ovviamente. Quindi l'ha vinto meritatamente, come ho detto poco fa, anche con una squadra eccezionale che, certo, che certo. L'ha sempre protetto e mai fatto sentire solo. Sul tour di Aru e Nibali cosa ne pensi? Da avversario. Come ha detto Staggi, Vincenzo ha vinto il Giro d'Italia e quindi non si poteva pretendere che ovviamente è dall'inizio dell'anno che dice che Giro d'Italia, Olimpiade, il tour era un momento di passaggio. Ha dimostrato di avere, come sempre, carattere e orgoglio, no? Non usa anche nella tappa di ieri, ha lottato fino all'ultimo per vincere ed è uno dei favoritissimi per la gara olimpica, a mio modo di vedere, Vincenzo. Per quanto riguarda Aru, chiaramente non sarà sicuramente contento della prestazione che ha fatto, però, ripeto, io lavoro per la Tinkoff e non per la Astana, certo, quindi bisogna capire, certo, anche, certo, le motivazioni. Non è mai bello fare il giudice o criticare il lavoro degli altri, no? Soprattutto per un ex atleta, ora dirigente, io lo faccio sempre mettendomi anche in bicicletta a volte, no? Quindi criticare è molto facile, pedalare è molto più difficile, no? Perché devi pedalare prima degli altri che giudicano. Quindi bisogna essere rispettosi del lavoro. Fabio è un professionista esemplare, ha preparato benissimo questo tour, avrà sicuramente avuto delle motivazioni che nessuno magari sa, perché che il suo rendimento non è stato come lui voleva principalmente. Però ha molto tempo, è giovane ed è un atleta di grande talento che insomma saprà, certo, ha ancora, certo, tante occasioni per dimostrare. Questa era la prima, era solo la prima, esatto. Pier Augusto Staggi, rispondi a Basso. No, ma condivido quello che ha detto Ivan, ci sta, lui ha corso dei tour a grandissimo livello, ha ottenuto due podi, sa che da un momento all'altro si può spegnere la luce, soprattutto se patisci magari una cattiva alimentazione, patisci il freddo, quello, come ha detto giustamente Ivan, lo sa solo Fabio e dovrà raccontarlo ai suoi dirigenti cosa è accaduto. Ci sta, però, perché a 26 anni, al primo Tour de France, con il meglio del ciclismo mondiale, vincere nulla, no, io amo la follia al Giro d'Italia, è importante anche la Vuelta a Spagna. Però il tour è veramente qualcosa di immenso, ma immenso non perché i chilometri sono più chilometri, ma perché gli avversari sono più avversari. Qua ci sono il meglio di ogni team presenta l'argenteria più bella, quella più preziosa che tiene nel cassetto. Al Giro d'Italia ne presenta uno o due, al Tour de France ci va con 9 su 9. Va con, come dice Beppe Martinelli, al Tour de France vai con due osteopati, con due massaggiatori, con due ammiragli in più, vai con tutto in più. Al Tour deve essere tutto perfetto. Se ti fai raccontare da Ivan come hanno organizzato a livello logistico la trasferta francese e come invece sono andati al Giro, capisci che già come approccio mentale di tutti i team è un altro cambia mondo. Il mondo. Fabio Aru aveva bisogno di capire, perché forse la faceva un po' facile, e con lui mi permetto di dire anche qualcuno del suo entourage, diceva, vedrà, siamo sesti, prossimo anno torniamo e vinciamo. Non è così. Il tour è qualcosa di estremamente impegnativo, che non inventi, solo pochi campioni alla prima partecipazione. Ma Ivan Basso si ricorderà il suo primo tour, vorrei no? Ricordare, Ivan si ricorderà il suo primo tour mettendosi nei panni di Aru, no Ivan? Prego, non ho capito la domanda. No, Stagi diceva il tour non è una cosa che si inventa. Aro era un debuttante al Tour de France, tu ti ricorderai il tuo primo tour e le difficoltà che hai incontrato. Guarda, io mi sento di dire questo. A mio modo di vedere il rendimento di Aro non è... bisogna saperle le cose, quindi è opportuno sapere da lui, perché un cedimento come quello di ieri... quando tu corri una gara come il Tour è sufficiente avere un minimo raffreddore non aver digerito per staccarsi. Io vorrei ricordare questo, non è un problema di primo tour o di condizione, perché non può uno arrivare e fare una cronometro fantastica, il giorno dopo lottare con i migliori in salita e il giorno dopo prendere 17 minuti. Bisogna capire cosa è successo. Io non mi sento di giudicare il Tour di Aru per la prestazione della tappa di ieri. E ripeto, soprattutto perché non è un mio corridore, certo, quindi cerco di tutelarlo, perché so che una prestazione di quel tipo non dipende solo dal tour, dipende probabilmente da un problema fisico che può capitare a tutti, ovviamente. Certo, grazie Ivan, grazie davvero. Grazie a voi, buona domenica. Ciao Ivan Basso. Evviva il ciclismo. Evviva il ciclismo sempre, sempre. Pieragosto, per chiudere, mi dai un voto a questo Tour de France? Secco? Poi ci sentiamo nei prossimi giorni e approfondiamo. Guarda, il discorso. Quando controcorrente, io mi sono divertito, è stato un buon tour e do un 8. 8 al tour. Anibali, quanto dai? Anibali è la nostra speranza per Rio, è uscito in crescendo, mi sembra che abbia svolto il lavoro che si era prefissato di fare e do un 7 pieno, perché è stato fondamentale anche in due occasioni proprio in supporto a Fabio Aru. Nella tappa di Andorra, ad esempio, sotto una pioggia torrenziale, anzi sotto la grandine, Fabio lì aveva vissuto una giornata di grande crisi, non è andato alla deriva grazie a Vincenzo. E anche la tappa dove è scattato Peter Sagan, apro la parentesi, il migliore del tour insieme a Chris Froome, forse il più spettacolare in assoluto. Voto 8.5, sì. 8.5, 9, è proprio immenso. Peter Sagan è stato immenso. Immenso. E anche in occasione di quella del colpo di genio di Froome, che a me è piaciuto, dei tre giri che lui ha vinto, dei tre tour che lui ha vinto, quest'anno è stato il Froome più bello e più creativo. Sono d'accordo. Attaccato in discesa lungo il Périsur, facendo la pedalata sul triciclo, attaccato contro, facendo un ventaglio con Peter Sagan. Ci ricordiamo cosa ha fatto sul Mont Ventoux, perché comunque prima gli stacca e dimostra di essere lo scalatore più forte, poi cade, si mette a correre, commette anche un'infrazione regolamentare. Ecco, al tour in quanto organizzazione e alla giuria devo dare 4. Devo dire che il tour a livello organizzativo ha commesso due gravi errori: l'arco gonfiabile che si sgonfia e si affloscia sulla testa di Adam Yates, il miglior giovane del tour, e deve essere poi medicato con 3 punti al mento, e poi il fattaccio del Mont Ventoux. Lì è una gravissima manchevolezza da parte dell'organizzazione, che onestamente devo dire ad oggi una brutta figura, così planetaria non l'ho mai fatto il nostro Giro d'Italia. Questo è vero, questo è vero. Grazie Pieragosto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a te Carlo. Ti abbraccio, grazie Pieragosto Stagi, ci fermiamo un secondo. E poi abbiamo ascoltatori, abbiamo altre storie da raccontare, state con noi. Io magari davanti, Fabio dietro, abbiamo cercato sicuramente in questo tour di vederlo in un modo diverso per fare una grande classifica e cercare la vittoria di una tappa. Non è stato molto semplice comunque. Tutti tutti convocati. Un po' la colonna sonora dell'infanzia di molti di noi, me compreso, Pink Panther. Lorenzo da Salerno stia lì, perché vorrei fare due chiacchiere, tempo d'estate, anche di buona lettura, con Francesco Ceniti della Gazzetta dello Sport, che ha scritto questo: i misteri intorno al mondo del pallone. Ciao Francesco. Ecco. Ciao, buona serata a voi. Raccontaci un paio di misteri, che poi leggiamo nel libro. Ma li scelgo io? Sono scegli, misteri... no, fammi sì. Prima una cornice e poi mettiamo due pennellate. Sì, la cornice si parla spesso, siamo in tempo di estate, lettura, gialli sulla spiaggia. Mm-hmm. E i gialli riguardano anche il mondo dello sport, in questo caso il mondo del calcio. E sono storie passate, sono storie che ritornano, sono storie che sono ancora vive, nel senso che ci sono inchieste, e sono storie anche dimenticate. Allora, a volte raccontarle è solo un esercizio di memoria, perché ci sono le nuove generazioni che non sanno nulla di quello che è accaduto, però dietro queste storie ci sono delle persone che ancora soffrono, delle famiglie che aspettano giustizia. E poi ci sono drammi sportivi più leggeri, perché è giusto anche, non dico farci due risate, no, ma magari certo. Ricordare qualche pagina un po' così del nostro calcio, tipo la lattina di Boninsegna, uh-huh, Coppa dei Campioni, o le luci di Marsiglia con Gagliani che cerca di ritirare il Milan per magari vincere la partita. Queste, diciamo, sono le più leggere. Poi ci sono storie. Qual è quella che ti ha colpito di più? Ma io quella, dico, qual è quella nella quale hai avuto più l'esigenza di frugare, di scavare, che ti ha incuriosito? Guarda, l'esigenza parte su tutte, perché il primo curioso ero io, e su tutte queste storie che vanno da Renato Curi a Meroni, a Luciano Rececconi, a Taccola, ho sempre trovato delle cose diverse da come io le sapevo e da come mi erano state tramandate. Dunque non è stato un esercizio vano. Alcune mi hanno lasciato indignato, perché ad esempio trovo assurdo che la vedova di Taccola, che all'epoca, quando morì il marito, giocatore della Roma, parliamo della fine degli anni 60, morto nello spogliatoio di Cagliari, lo stadio di Cagliari, non abbia adesso, ancora adesso, sono passati 47 anni da quando, sì, è morto il marito, sì, il vitalizio, che pure è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Questo perché è una storiaccia brutta, dove c'è di mezzo doping, dove c'è di mezzo, sono di mezzo delle, una visita non fatta per l'idoneità, in quanto il giocatore avevano scoperto un soffio al cuore, dunque la Roma teneva che gli venisse ritirata l'idoneità, e dunque perdeva il suo centravanti principe. E poi ci sono nomi importanti, perché i presidenti di quegli anni della Roma facevano capo a Marchini, ad Evangelisti, vale a dire il più potente costruttore dell'epoca, e un senatore della Repubblica molto importante vicino a Giulio Andreotti. Sì. E un'inchiesta di una morte dentro di un calciatore finisce negli archivi come segreto di Stato, come Ustica, certo, perché non si dovevano vedere le carte. Sì, oppure sì, funziona di Cecconi, dove anch'io, perché mi occupo di calcio, ero convinto, perché così mi è stato raccontato, che era andata una rapina per scherzo finita male, poi scopro che non è andata così, vado a parlare con Kedin, che adesso è il CT di Malta, e trovo una persona che a distanza di quasi 40 anni soffre maledettamente per essere un sopravvissuto, perché lui è un sopravvissuto di quella giornata ed è anche testimone della morte di un amico, di un compagno di squadra. Che è successo? Ma è successo che parliamo appunto degli anni 70, no? Perciò bisogna anche inquadrare il clima dell'epoca, certo. E dunque stiamo parlando di un clima dove c'è un terrorismo, continue rapine, le gioiellerie usate come bancomat dai terroristi per rifarsi di soldi, molti morti ammazzati anche tra i gioiellieri, e dunque paura, una paura maledetta di chi non sapeva come difendersi. È capitato un gioielliere che non sapeva nulla di calcio, vede entrare un amico che doveva portargli delle boccette di profumo. Questo amico a sua volta aveva altri due amici, che erano due giocatori importanti, Luciano Rececconi e Ghedini. Ma entrano un po' trafelati, era una giornata di gennaio, faceva freddo, Rececconi aveva il bavero alzato. C'è una frase smuzzicata da qualcuno che dice: ecco, ci siamo qua. E questo gioielliere tira fuori immediatamente una Werther che era sempre sicura, la punta su Ghedini, che alza le mani distinto, salvandosi la vita. E poi la gira in modo veloce su Rececconi. Quel movimento brusco fa partire il colpo e Rececconi muore praticamente quasi subito. per un'emorragia interna, senza aver detto niente e senza aver fatto nulla, se non essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E si poteva morire così. E poi un processo con una lobby potente, che era all'epoca dei gioiellieri, che voleva dare anche un segnale, dice: attenzione, noi ci difendiamo, non potete entrare in un evento. E dunque viene assolto. Un caso così, messo ai giorni di oggi, sarebbe finito sicuramente un po' diverso il processo. E ce ne sono tanti altri, compreso Bergamini, che, dicevo, c'è ancora un caso ancora vivo, virgolette vivo, perché nonostante l'inchiesta, l'ennesima inchiesta sia stata archiviata nel dicembre scorso, il nuovo procuratore di Castrovillari la sta riaprendo, la sta per riaprire. Parliamo di un giocatore del Cosenza, morto nell'89 in un modo strano. La verità ufficiale dice un suicidio. Suicidio di un giocatore che si butta sotto un canone, anzi si tuffa a pesce, come ha testimoniato la sua ex ragazza che era con lui. Sì. Giocatore che era nel fiore degli anni, aveva un contratto milionario, stava per andare a giocare in A con la Fiorentina, e che improvvisamente il giorno prima di una partita col Messina lascia il ritiro, prende la sua macchina, va a 100 km da Cosenza e così decide di buttarsi sotto un camion per una storia d'amore finita male, quando poi era stato lui a lasciare la ragazza. E tante cose che non tornano in questa verità ufficiale, come perizie sballate, rilievi sballati, vestiti bruciati, tutto che sparisce improvvisamente. E invece quello che poi fanno dopo la distanza di 20 anni RIS e altri periti nominati dalla procura dicono, ad esempio, che il cadavere di Bergamini, quando viene sormontato dal camion, da questo camion che gli provoca l'unico squarcio che lui ha evidente, c'è una ferita al bacino da spappolamento, come il perito dice, come se fosse una susina schiacciata. Per la perizia avviene quando Bergamini è già cadavere, cioè quando è stato messo lì sull'asfalto e fatto passare dal camion avanti e indietro, perché era una ferita e magari può aprire qualche altra cosa. Ma per adesso siamo solo ipotesi. Sì, siamo a un mistero non risolto. Mistero non risolto, su cui ogni tanto leggiamo ancora da fonti di agenzia. E leggeremo ancora, perché ci sarà probabilmente un'ennesima inchiesta. Vediamo se il nuovo procuratore di Castrovillari, un ex magistrato della DDA, avrà voglia di andare fino in fondo. E c'è, ricordiamo, una sorella, un papà e una mamma che chiedono che aspettano di sapere che cosa diavolo è successo, come è morto il loro figlio, e tanti tifosi che ovviamente manco mai, che sono stati fondamentali in questo, hanno dato coraggio alla famiglia, non hanno mai lasciato il suo. Insomma, storia così, storia da leggere sotto l'ombrellone, magari tra un bagno, un tuffo, però per riflettere, per dire che il calcio a volte non è solo gioia per un gol, non è solo rabbia per un'accezione di un campione come Higuaín. Volte porta storie un po' più particolari. È uno spaccato di tutto quanto, dai. Esatto, Francesco. Esatto. Grazie davvero. Grazie, e in bocca al lupo. L'ho trovato con la Gazzetta, in edicola, l'ho trovato in edicola, fammi dire solo questo. Sì, sì. L'ho trovato in edicola. Si può comprare con la Gazzetta dello Sport, ma anche come un libro a parte, ma in edicola, non in libreria. In edicola 12 misteri intorno al mondo del pallone di Francesco Ceniti, giornalista della Gazzetta dello Sport. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Traffico, torniamo subito. Devo dire, ma la sono fatta sotto. Tutti convocati. Tutti convocati. E tutti convocati, sì ragazzi, ogni giorno siamo qui, non vi lasciamo mai, per tutta l'estate in diretta, compreso domani, ovviamente, alle 14 e qualcosa, dopo il GR, dopo le informazioni sull'Europa, siamo qui ad aspettarvi. Lorenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Ormai buonasera. Buonasera. Dica. Grazie per la convocazione. Da Napoli, no, da Salerno. Da Napoli. Mi scrivono Salerno, leggo Salerno, poi bacchetterò chi l'ha scritto. Dica. No, sono attualmente a Salerno, ma va bene, ok. Sì, questione di geolocalizzazione, ho capito. Volevo, lasciatemi il termine, un termine che usiamo noi a Napoli, la gestione pane e puparuola del caso Higuaín. Ripete per favore, ripetere prego. Pane e puparuola, fatta pane e puparuola, perché il De Laurentiis ha perso l'ennesima occasione per cercare di elevare la cultura dell'azienda Napoli Calcio al livello delle grandi società diciamo europee, che lui vuole tanto fare il campionato europeo. Se c'è una clausola, il pericolo che qualcuno venga all'ultimo minuto di mercato e si piglia Higuain c'è. Certo. Se si decide di venderlo e non alla rivale dello scudetto, lo si programma prima. Primo errore. Secondo errore, se la Juve gentilmente viene da te durante la Lega e dice ok, sediamoci, io c'ho un parco di giocatori che ti interessano, tu c'hai, dobbiamo arrivare a 94, magari andiamo a qualcosa in meno, però tu vai a scegliere da una bottega che interessa, si siede fra professionisti seri e si risolve e ci usciamo tutti vincitori. Invece adesso si rischia che il Napoli ha i soldi, sì, ma tutti sanno che ha i soldi. E quindi anche un giocatore. Questo è vero. Questo è reale. Il problema si poneva anche con Lavezzi e con Cavani. Aspetta, però con Cavani. Allora, secondo me, Higuain non penso che sia talmente tanto disonesto da aver il mal di pancia, di averselo fatto venire sotto gli ultimi giorni. Secondo me, il mal di pancia di Higuain in società si sapeva. E quindi o si programma prima o si accetta l'invito della Juve, perché ci si siede e c'è Rugani, Zazza, Suraro, Lemina, si fa il giochino con ok, dammi Dybala, ci siede nel tavolo e si dà seri. Invece adesso Dybala non te lo danno mai, Lorenzo, siamo chiari. No, non te lo daranno mai, però adesso si rischia di non far passare Higuain, traditore, munnezza, tutte queste cose qua e tutto, quando la gestione è sbagliata è dei presidenti e dei dirigenti che vogliono salvare la faccia. È sbagliatissima. Lorenzo, in linea di principio lei non ha torto, secondo me. Per quanto riguarda i fatti, bisogna capire se la dirigenza napoletana ha già delle contromisure, se ha già pensato al futuro, perché non credo che siano così sprovveduti, non credo che un affare come quello Higuain, come quello di Pogba, sia una cosa dell'ultimo minuto, e quindi sono anche abbastanza curioso di vedere quali saranno le contromosse del Napoli, perché adesso stiamo parlando su quello che abbiamo letto, su si dice, sulle possibilità di trattare altri giocatori della Juventus, però io non credo che Napoli abbia saputo ieri, nemmeno l'altro ieri, nemmeno la settimana scorsa di questo intreccio, e io credo che da dirigenza lungimirante possa avere dei piani sul futuro che andremo a scoprire. Certamente quello che so è che sostituire un giocatore come Higuain in questo momento a livello mondiale non è semplice, cioè non puoi prendere un vice Higuain, non puoi andare a prendere Lewandowski, non puoi andare a prendere Benzema, non puoi andare a prendere un superstar di questo tipo. Può anche valere l'ipotesi cinematografica che abbiamo sentito prima, di magari rinforzare il centrocampo con una superstar come può essere Rakitic, che potrebbe essere uscita dal Barcellona, il cui mal di pancia è stato evidenziato dal suo procuratore in settimana, e poi magari puntare su suggestioni offensive come possono essere, si legge oggi, quella di Tevez, come può essere quella secondo me abbastanza campata per aria di Balotelli. Insomma, ci vuole fantasia oltre al denaro, che De Laurentiis ha, però d'altra parte De Laurentiis già qualche anno fa disse ho 120, dopo che ha venduto Cavani, ho 120 milioni da spendere, e tutti lo sapevano. Gennaro, buongiorno. Gennaro, dica. Oh, pronto, scusa, sono Gennaro da Milano. Sì. Senta, io, a parte il caso Higuain, sono tifosi del Napoli, e io, a parte che ce l'ho un po' con De Laurentiis, perché non mi piace i modi arroganti e a volte volgari che esprime durante le sue manifestazioni. A parte questo, io volevo parlare della Formula 1. Sì. La Formula 1, secondo me, da quando è andato via Giandot, la Ferrari è andato sempre indietro. Adesso pensavo che con l'avvento di Marchionne sarebbe cambiato qualcosa, ma vedo che anche lui non riesce a togliere un ragno da buco. Ma Giandot non potrebbe ritornare alla Ferrari? Non credo. E se sì, perché non lo fanno tornare? Non credo, perché adesso fa un altro mestiere completamente diverso. Cioè, dirige dall'alto il circus. Non dimentico anche che lo stesso Giandot ci mise qualche annetto, che pure era del settore, ci mise qualche annetto prima di riuscire a cominciare a vincere i mondiali con Michael Schumacher. La Ferrari visse una lunga stagione di buio prima di tornare a vincere i titoli. In Formula 1 si inventa poco. Secondo me il grande errore strategico è stato quello di dichiarare all'inizio di questa stagione: siamo competitivi, vogliamo il titolo, andiamo forte come una Mercedes. Non era così e si doveva sapere, e soprattutto si doveva evitare di esternare queste false illusioni. Allora, chiudiamo ricordando un grande evento di questa sera, perché alla fine una finale europea di calcio la giochiamo. Un percorso fantastico, sono dei ragazzi fantastici, abbiamo lavorato molto, abbiamo perseguito degli obiettivi passi dopo passi, e questi ragazzi sono stati fantastici a credere, quello che abbiamo sempre detto, a un sogno che possiamo toccare con le nostre mani. Questo è Vanoli, il commissario tecnico della nazionale italiana Under 19. Questa sera si gioca contro la Francia il titolo europeo. La racconterà per Eurosport Stefano Benzi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Beh, dai, una finale europea contro una grande avversaria, ce la giochiamo. La Francia alla seconda, speriamo che stecchi anche questa. Guarda, fammi fare il corvaccio. Non sei l'unico, guarda. Abbiamo i corridoi pieni di piume. Sì. Devo dire che la Francia fa veramente paura, perché è una squadra splendida, però era splendida anche l'Inghilterra e ha perso, era splendida e padrona di casa anche la Germania e ha perso. Molti diranno ha perso e gli abbiamo fatto solo un tiro in porta. Sì, ma intanto il nostro tiro in porta è entrato e loro non sono entrati mai, perché uno dei punti di forza dell'Italia è Alex Meret, questo portiere strepitoso dell'Udinese, che è stato sicuramente l'uomo in più, non l'uomo rivelazione, perché ti ricorderai, lui era già stato convocato addirittura, certo, da Prandelli, sì. E Prandelli lo aveva messo sotto torchio a fargli tirare in porta da Pirlo, da tutti i migliori. È una bella squadra ed è anche una bella storia sostanzialmente. Perché sai, l'Italia non vince questo titolo da tanti anni, dal 2003. Eravamo in Liechtenstein e battemmo la Germania 3-1. E in finale non ci va dal 2008, e sono comunque parecchi anni. Il primo risultato importante raggiunto, importantissimo, è che comunque l'Italia, indipendentemente da tutto, sarà ai mondiali under 20. E più vado avanti a fare questo mestiere, ormai sono 30 anni, e più mi rendo conto che i settori giovanili si costruiscono con un programma che non può andare a strappi, non può andare a strattoni. Quindi capisci, un campionato europeo oggi, un campionato mondiale domani, ma nel frattempo c'era Under 17, cioè è così che si costruiscono i giocatori, è così che si costruiscono i fuoriclasse. È un bel raggio di sole, Stefano, questo è un bel raggio di sole, e spero che tu questa sera possa raccontare fischio d'inizio 20:30 per Eurosport un bellissimo tramonto su questo europeo Under 19, magari un tramonto tutto azzurro, non tutto bleu français, ma tutto azzurro. Grazie Stefano Benzi, grazie per averci seguito, grazie a Giovanni Buonamici in redazione, a Roberta Frisani in regia. Ci sentiamo domani, tutti convocati dopo le 14.